U. Bue. Bue. Mulo. Mulo. Buffalo. Buffalo. Uva. Uva. 练习. Lupo. Lupo. Nudo. Nudo. Muto. Muto. Luna. Luna. Puro. Puro. Duro. Duro. Lui fu tutto muto. Un lupo ulula tutta la notte. La luna illumina la terra. È una pura bugia. 谚语. Proverbi. Chi troppo vuole, nulla stringe. Dove l'asino casca una volta, non ci casca più.